si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, buon sabato, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, oggi insieme dalle 7:30 fino alle 10, un'occhiata veloce ai giornali di oggi che ci accompagnerà al giornale radio delle 8, poi riprenderemo con i nostri approfondimenti sempre a caccia di buone notizie. Quest'oggi partiremo, ve lo dico subito, da un piccolo caso con la legge di stabilità appena approvata alle spalle. Certo, si parla di grandi cifre con poi per quanto riguarda la scuola, perché parleremo di scuola, con la buona scuola e l'assunzione di 100.000 precari, può sembrare un caso piccolo, ma alla ripartenza delle scuole ci si accorge nuovamente anche quest'anno che ci sono classi dove l'insegnamento dell'ora di religione avviene di fronte a 3, 4, 5, 6 studenti, ma le classi non si possono accorpare per risparmiare. Sarebbe doveroso, sarebbe giusto in un momento nel quale si sacrificano per esempio gli insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili, ebbene non si possono accorpare le classi dell'ora di religione per una legge che ha a che fare con i rapporti tra lo Stato e il Vaticano. Perché questa cosa non si può fare? Partiremo da qua, questo però dopo il GR delle 8. Adesso andiamo velocemente sui giornali di oggi, prima però i contatti se volete interagire con noi: la pagina Facebook Si può fare trattino 24, Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, vai. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, che cosa c'è sul giornale di oggi? Principalmente si parla ancora della legge di stabilità, si comincia a scavare, a capire cosa cambia. Ci sono due leggi di stabilità, tra l'altro, sarebbe interessante dirlo, no? Ci sono i provvedimenti a favore di, quindi diciamo la conferenza stampa fatta da Renzi e tutte le misure a favore di questo, di quello e di quell'altro a sostegno. Poi c'è il da dove si prendono i soldi, perché anche quelle sono scelte politiche. Renzi a Radio 24 alla domanda dei nostri Milan e Giannino sulle coperture ha detto: ma mi fate sempre questa domanda sulle coperture? Ebbene sì, le coperture sono non importanti, sono fondamentali, sono l'altra legge di stabilità. E insomma si comincia a scavare su questo. Poi spazio anche alla questione dei vaccini, il caso dei vaccini, perché il ministero ventila sanzioni per i medici che sconsigliano i vaccini. E poi insomma anche l'estero, con l'impegno dell'Italia in Afghanistan che viene prorogato sulla scia di quanto deciso dall'America, dal presidente americano Obama 2 giorni fa. Cominciamo con il Corriere della Sera, titolo principale dedicato alla, intanto titolo di economico: Renzi sfida Bruxelles sulla manovra. Anche questa è una frase che è stata detta a Radio 24 dal presidente del Consiglio Renzi. Ha detto sostanzialmente, tecnicamente, se Bruxelles respinge la manovra noi la approviamo lo stesso. Poi dopo c'è stata una controreplica di Bruxelles che ha detto: abbiamo le basi legali, qualche portavoce di qualche commissario ha detto abbiamo le basi legali per mettere in discussione la legge di stabilità. Però insomma in questo momento la legge di stabilità italiana sta dentro i parametri del 3% eccetera eccetera, anche se ci sono tutta una serie di se e di ma in discussione. Il caso vaccini però è il titolo principale per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vaccini, il caso delle sanzioni, ipotesi di provvedimenti disciplinari a chi li sconsiglia ma i medici insorgono. Di cosa si tratta? Il piano, la strategia del piano nazionale 2016-2018 prevede sanzioni per i medici che sconsigliano i vaccini, con lo scopo di frenare il calo delle profilassi tra i bambini già sotto i limiti di sicurezza. Uno degli obiettivi del piano è sostenere il senso di responsabilità degli operatori sanitari dipendenti e convenzionati con il servizio pubblico. Il ministero però specifica: sono azioni da concordare con gli ordini dei medici, cioè non c'è nessuna come dire, intanto ha detto il ministro Lorenzin non è prevista nessuna radiazione di nessun medico. le radiazioni, semmai dei medici, le prevedono gli ordini dei medici e non il ministero. E questa è una prima precisazione. Però di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo. Intanto il Corriere ci ricorda le tappe di questa vicenda. Nel 99 viene abolito in Italia l'obbligo di presentare il certificato di vaccinazione per iscrivere un bambino a scuola, perché il governo ritenne a quell'epoca che il diritto allo studio fosse prevalente sul il discorso delle vaccinazioni e quindi sulla, sulla tutela della salute. Poi che succede? Le regioni in preparazione del piano nazionale vaccini triennali sarebbero orientate invece a reintrodurre questo obbligo di presentare la certificazione. In realtà la profilassi in età pediatrica resta un obbligo per legge, solo il Veneto ha introdotto nel 2008 la libera scelta. In Piemonte, Lombardia, Emilia, Friuli, Venezia Giulia si sta pensando di introdurre un regime di adesione consapevole. C'è una specie di intervista al capofila di quelli contrari al vaccino, il dottore che guida gli scettici. Lo dice la Costituzione, le cure non sono obbligatorie. Si tratta di Eugenio Serravalle, medico pediatra pisano, specializzato in pediatria a Pavia, omeopata, presidente dell'Associazione di Studi e di Informazione per la Salute. L'articolo 32 della Costituzione dice che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, invece i vaccini sono obbligatori. Già, però il medico omette la parte che dice che l'obbligatorietà invece ci può essere per disposizioni di legge in alcuni casi. E questo appunto è uno di quelli. Vabbè, il punto, dice questo dottor Serravalle, non sono i vaccini, non siamo contro i vaccini, ma contro la disinformazione sui vaccini che è diventata allarmismo. In particolare ce l'avrebbe con il vaccino per l'epatite B, che è stato introdotto negli anni 90 dal ministro De Lorenzo, poi condannato per episodi di corruzione, un vaccino che andrebbe fatto solo in casi particolari e non a tutti, cioè solo a certe categorie come madri infette, bimbi con patologie croniche, e invece viene proposto a tutti. Fatto sta che il calo delle vaccinazioni comincia a superare una soglia di allarme per malattie come la pertosse, che è una malattia mortale. È da qua il caso, e siamo su tutt'altra sponda, che è nato a Bologna con alcune mamme, fra l'altro le sentiremo nel corso di Si può fare, nella seconda ora, Io vaccino, una campagna di alcune mamme, parte dal caso di una bambina ammalatasi gravemente nei primi giorni di vita di pertosse, una malattia mortale. E allora ecco le facce sorridenti, ma decise, dei genitori che hanno aderito a questa campagna Io vaccino. Andiamo sul discorso invece, altri titoli sempre sui vaccini, il Messaggero, caso vaccini, sanzioni ai medici, ma questo è un po' il tenore anche degli altri giornali. La battaglia dei vaccini a scuola, punire i medici che dicono no. Il Ministero, niente radiazioni dall'albo, questa Repubblica. Sul discorso invece della legge di stabilità, dicevamo. Allora, andiamo sul Sole 24 Ore, che oggi ha un focus sulla famiglia e uno sui professionisti. Per quanto riguarda la famiglia, si passa dal discorso delle bonus detrazioni, delle detrazioni del 50% e del 65% per le ristrutturazioni e per l'efficienza energetica, la TASI che sparisce anche per gli occupanti degli immobili nel 2016, il canone in bolletta, eccetera, eccetera, eccetera. Sui professionisti si parla dei regimi agevolati per le partite IVA, degli aspetti previdenziali e quant'altro. Due commenti in prima pagina sul Sole 24 Ore, diciamo così, a dare un po' l'intonazione su questa legge di stabilità. Le priorità, la scelta sacrosanta di sostenere la ripresa, dice Fabrizio Forché, e d'altra parte Guido Tabellini, il prezzo pagato al consenso a breve. Perché? Perché, dice Tabellini, oggi l'obiettivo prioritario del governo è consolidare il consenso, il rientro dal debito può aspettare, perché insomma ci sono i tagli mancati dalla spending review, il problema appunto dell'altra legge di stabilità, quella da dove si prendono i soldi. I soldi si prendono andando in deficit sostanzialmente, cioè spendendo, facendo un po' di più di spesa pubblica. Per fare che cosa? Però lo spiega l'altro commento, quello di Forché, che dice: sostenere i refoli di ripresa e alimentarli in ogni modo per trasformarli in un vento stabile e sostenuto. Non può che essere questo l'obiettivo prioritario della politica economica. Perciò La manovra, varata giovedì dal governo, va nella giusta direzione, seppure con qualche fragilità. È una manovra per la metà finanziata a deficit, non senza coperture una tantum, e questo non è mai un bene, ma rispetto all'obiettivo prioritario della ripresa, qualche scorrettezza rispetto ai testi sacri del rigore è certamente legittima. Questo sul Sole 24 Ore di oggi, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Stavamo guardando sul Sole 24 Ore di oggi, diciamo, il focus sulla legge di stabilità. Ripeto, un approfondimento, ci sono 9 pagine su famiglia e professionisti. C'è anche il commento del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Gai, che dice serve uno shock positivo per il mezzogiorno. Commenti di altra natura sono anche quelli sui giornali vicini al centrodestra, come per esempio Il Giornale, che dice mazzata infinita, gli strozzini del canone Rai, non paghi la tassa nella bolletta elettrica, scatta una multa da usurai 500 euro. Questa sarebbe appunto la sanzione prevista dalla legge di stabilità per chi non si adegua al pagamento del canone Rai in bolletta. Libero scrive: fatta la manovra, ha trovato l'inganno. Cosa non torna nei conti di Renzi? La legge di stabilità è scritta sull'acqua, manca ancora il testo. Dai tweet si capisce che elargirà alle famiglie mezzo caffè al giorno, befferà i pensionati e farà pagare ai nostri figli gli spot elettorali. Scrive Maurizio Belpietro: c'è un Madoff a Palazzo Chigi. Addirittura Madoff era quel, ricordate, quel mediatore finanziario che ha truffato un sacco di gente facendo sparire i risparmi, mi pare anche di molti miliardari italiani. C'è un Madoff a Palazzo Chigi. Dallo schema Ponzi si è infatti passati allo schema Renzi, che prevede la distribuzione di ricchi premi e cotillon in cambio del consenso elettorale. La legge di stabilità varata dal Presidente del Consiglio, più che alla crescita economica, come il Premier ama ripetere, punta alla ricrescita elettorale, ossia a ritrovare i voti perduti. Questo sul Libero. Lasciamo però la legge di stabilità, anzi no, torniamo sulla politica con Repubblica, perché insomma, questo è il tono, diciamo, dei giornali di centrodestra, che naturalmente criticano, come giusto che sia, la legge di stabilità. Però non tutto il centrodestra la pensa così. Pensate, Repubblica riporta questa notizia: Sandro Bondi e la moglie Manuela Rapetti stanno per, non dico entrare nel Partito Democratico, è una svolta pazzesca, ma insomma annunciano il sostegno definitivo al governo Renzi, ma non solo per questa legislatura, anche in futuro. Invitano infatti Alfano a fare questo proprio mentre nella settimana in cui Gaetano Quagliariello esce dal nuovo centrodestra, o comunque insomma ha lasciato il ruolo che aveva di coordinatore, portavoce, o adesso non ricordo, di capogruppo. Dice Manuela Repetti, la moglie di Sandro Bondi, figura storica del centrodestra, del berlusconismo italiano: spero che Alfano si faccia promotore di un progetto politico liberale che aggreghi le diverse anime fuoriuscite dal centrodestra. E fin qua l'obiettivo è ambizioso, il proseguimento di questo governo anche dopo il 2018, ma anche un'alleanza per il futuro. Spiega la moglie di Sandro Bondi: la sinistra italiana ha fatto con Renzi una svolta storica ed è in grado di modernizzare l'Italia. Parole abbastanza pazzesche, pensate, solo un anno fa, due anni fa. Da Scelta Civica al nuovo centrodestra, tutta l'area che si sta muovendo, Tosi, Tabacci, dice la Repetti: se c'è una legislatura costituente lo si deve anche al coraggio di Alfano. L'importante è che questo progetto sostenga con chiarezza la scommessa di Renzi e che abbandoni definitivamente la destra, che è rimasto territorio di Salvini. E va bene, però ci sono anche altre notizie. Per esempio c'è la polemica con i meteorologi, Protezione Civile, sindaci. È risuccesso anche questa volta a Benevento, perché il sindaco di Benevento, Pepe, ha detto, attaccato alla Protezione Civile, ha detto l'allerta a Benevento ci sono state 2 o 3 vittime, adesso non ricordo il numero esatto, 5 in totale in Italia in questi giorni. Pepe, il sindaco di Benevento, ha detto c'è arrivata l'allerta, ma l'allerta era arancione, che vuol dire pioggia moderata. La protezione civile ha replicato, il territorio era in allerta, bisogna vedere cosa prevede il piano comunale di allerta in questi casi, ha detto appunto Curcio, il capo della protezione civile. Fatto sta che i meteorologi adesso vogliono la patente, troppe previsioni improvvisate, gli esperti chiedono l'ennesimo obbligo di certificato, ed è quello che scrive il Corriere in prima pagina. Di che si tratta? Si tratta di questo: con 3 anni di ritardo, lo chiedeva una legge del 2012, sta per arrivare sul tavolo del governo un provvedimento che vara la certificazione del meteorologo, una direttiva giuridica che stabilisce come deve essere organizzato il lavoro, la preparazione di chi lo affronta, l'aggiornamento. Dice Dino Zardi dell'Università di Trento, organizzatore tra l'altro del Festival della Meteorologia, è indispensabile per tutelare chi esercita questo mestiere, ma anche per il cittadino. Il provvedimento dovrebbe unire in una rete i vari servizi meteo locali. Però va bene, io dico, a parte l'ennesimo, diciamo, patente, l'ennesimo ordine, va bene, può darsi che serva anche a tutelare, come dice questo signore, questo meteorologo, i cittadini e i professionisti, però le previsioni sono fallaci, possono sbagliare, non c'è niente da fare. Oggi il Corriere giustamente lo ricorda, le previsioni di ieri per Milano dicevano, non dico i nomi dei siti, dicevano nuvole e pioggerellina, però ieri c'era solicchio. Questo può succedere, gli errori ci stanno sempre, non c'è niente da fare. Ci fermiamo qua con la rassegna stampa, ci ritroviamo invece con Si può fare dopo il giornale delle 8, a più tardi. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Eccoci qua, 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo dopo la rassegna stampa, il giornale radio. Adesso iniziamo, tra poco parleremo di scuola e poi vi aspettiamo, oltre che per commentare tutto quello che volete, naturalmente, come sempre, anche per giocare con noi. Oggi Carlo, Milano, Monterosa? Ma come butta? Non si capisce ancora come sarà la giornata. Discreta. È freddino, però insomma. Potrebbe anche venire fuori il sole. Ok, allora cari ascoltatori, oggi un appuntamento, lo voglio dire. Il Festival della Crescita a Milano, al Palazzo delle Stelline, si discute di crescita sostenibile. È insomma un bel tema anche per noi. Io ci sarò, cercherò di portare qualche buona notizia di quelle che di quelle che costruiamo qui. Costruiamo con fatica. Si può fare, no, non costruiamo niente. Le buone notizie ci sono. Basta andare a cercarle, e spesso le buone notizie magari sono anche nascoste sotto una notizia che apparentemente sembra pessima. Allora, cari ascoltatori, insomma, tra poco appunto parleremo di scuola, non anticipiamo niente, parleremo di ora di religione in un momento nel quale si fatica ad avere gli insegnanti di sostegno in molte scuole. Però vogliamo giocare anche il gioco. Sì, insomma, allora Salvini ha detto che vorrebbe reintrodurre la leva obbligatoria, no, per i nostri giovani, per i diciottenni, eccetera, eccetera, perché per riportare un senso di onore. Ah, il senso di onore, per avere un esercito. No, perché in realtà è un'antica questione quella della leva obbligatoria, e devo dire che io da più giovane ovviamente ero assolutamente contrario, perché non volevo, mi sembrava che anch'io avrei perso un anno, era terribile la guerra, no, sì, eccetera, ma un eccetera. Po' era anche una questione ego riferita, che dicevo, ma sì, com'è possibile che io devo perdere un anno adesso, come faccio, e poi dopo nessuno mi aspetterà. Però esiste anche una giusta teoria per cui un esercito fatto anche, cioè, da tutti i cittadini, in realtà sarebbe meglio, perché un esercito fatto di soli professionisti, i rischi di golpe aumentano. Quindi in realtà c'è tutta una teoria per cui l'esercito dovrebbe essere, nel senso che c'è una sorta di controllo, giustamente. Se ognuno di noi, o i nostri figli, o i nostri cugini, comunque entrano nell'esercito e per un anno della loro vita partecipano alla vita militare, prima che succeda qualcosa è più difficile. Quindi non so se sono d'accordo con Salvini. Salvini pensava a questo, però pensava più alla questione dell'onore e vuole reintrodurre questa cosa. Allora noi ci è venuta in mente, ma insomma, siccome è una cosa che c'era, un po' come altre cose che ogni tanto solleva la Lega, per esempio riaprire le case chiuse, allora non è che magari Salvini è un po' nostalgico, no? Ed è una cosa legittima, tutti noi siamo nostalgici. E funziona molto l'operazione nostalgia. Allora voi, cari ascoltatori, di che cosa siete nostalgici? Che cosa vorreste che tornasse, che c'era e che adesso non c'è più? La lira è un grande classico. Sai che a me viene in mente quella. È sempre roba leghista, effettivamente, però po' è la sensazione che la Lega è un po' un'operazione, diciamo, è la politica del tentativo. Tu lanci un amo, vedi un po' come va, è quasi un sondaggio. Dire, la lira, quante persone interessa la lira? Quante persone interessa il servizio militare? Ma non so, per esempio, le case chiuse, oppure per uscire da questo, non so, il grembiule a scuola. Vogliamo parlare di discipline di onore? Magari qualcuno pensa che quando c'era il grembiule a scuola, che è la divisa, che c'è ancora, ne abbiamo anche parlato qualche volta, se è giusto meglio o meno avere la divisa a scuola. 800 24 00 24. Anche oggi mettiamo in palio due biglietti più il catalogo della mostra da Raffaello a Scile, al museo di Palazzo Reale. Palazzo Reale a Milano, da Raffaello a Scile. Due biglietti e il catalogo. Perché non sentiamo musica in sottofondo, in regia? Oggi siamo partiti un po' più fermi. Mettiamo qualcosa, un po' di base, un po' di qualche cosa. Adesso però andiamo a iniziare. Vai! Sembrare una piccola cosa, è stata appena approvata la legge di stabilità, si parla di grandi cifre, 27 miliardi, eccetera eccetera. Se parliamo di scuola, è stato approvato la buona scuola, l'assunzione di 100.000 precari, ci sono sempre dei problemi all'inizio dell'anno scolastico, potrà sembrare piccola cosa, eppure, come accade alla riapertura di ogni anno scolastico, ci si rende conto che ci sono classi dove avviene l'insegnamento dell'ora di religione davanti a 3, 4, 5, 6 studenti, un insegnante per 5 studenti. È una cosa che magari avercelo un rapporto così in altre materie, in un momento in cui invece è impossibile avere delle sezioni che abbiano meno di 25 studenti, 27 studenti. Ho detto che mi sembra che meno di 27 non puoi fare una sezione. Mancano gli insegnanti di sostegno per i disabili in molti casi. Allora vogliamo capire come mai questa cosa, che è stata sollevata da alcuni presidi, è possibile. Ne parliamo con Caterina Spina, segretario generale della FLC-CGL di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lavoratori della conoscenza, cioè lavoratori della scuola. Come mai succede questo? Proprio nel momento in cui invece si fatica, per esempio, ad avere insegnanti di sostegno, perché nonostante l'assunzione di molti precari, abbiamo scoperto che mancano gli insegnanti di sostegno nelle scuole, e però ci sono insegnamenti dell'ora di religione con quanti ragazzi per ogni studente? Quali sono le casistiche che avete registrato? Sì, succede da tempo, succede da anni, non è una novità, è una condizione che si evidenzia da molto tempo. Ci sono classi, soprattutto nelle scuole secondarie superiori, gli studenti per la maggior parte non partecipano a quell'insegnamento perché esprimono la non volontà, e quindi la classe rimane praticamente formata anche da 5, 3, 7, sono differenziati a seconda della situazione dell'istituto. Succede nei licei come succede negli istituti tecnici e professionali, quindi non risparmia nessuna tipologia di indirizzo. E succede su un insegnamento che invece non riduce ovviamente la presenza degli insegnanti. Non perché come mai non sono ammessi accorpamenti in queste classi? Ecco, questa è la domanda, forse sia nostalgici anche in questo, nel senso che gli accorpamenti non sono previsti perché la disciplina della presenza degli insegnanti di religione cattolica nella scuola italiana, sì, segue delle regole che riguardano concordati. Risale al 1984. Sì, tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Ora, è ovvio che secondo noi, a nostro avviso, un po' tutta la situazione, la questione legata all'insegnamento della religione cattolica avrebbe necessità di essere oggetto di una discussione. Perché oggi, l'insegnamento dell'ora di religione, gli insegnanti vengono retribuiti naturalmente dallo Stato italiano, però vengono da chi vengono decisi, da chi vengono scelti? Guardi, gli insegnanti di religione hanno subito negli anni dei cambiamenti, nel senso, sì, che ci sono state anche delle regole, chiamiamole concorsuali, un po' riservate, per cui percorsi di stabilizzazione anche per loro, che risalgono a un bel po' di tempo fa, e hanno trasformato quel personale come dipendente a tutti gli effetti dello Stato italiano. Perché insomma, a voler malignare, uno potrebbe pensare che non si fanno questi accorpamenti perché si vuole mantenere, diciamo, anche un po' un corpo di insegnanti di questa ora di religione, perché questi insegnanti che insegnano l'ora di religione non è che poi insegnano anche altre materie, fanno solo quello. Assolutamente, insegnano solo religione cattolica. E la cosa che, diciamo, che il principio su cui molti presidi anche stanno cominciando ad orientarsi, ma credo che la discussione non debba essere ovviamente quella che riguarda solo presidi o organizzazioni sindacali, penso che ci debba essere una discussione politica e anche, sì, pedagogica. Io voglio citare, citare i presidi, sì, perché così, diciamo, dov'è che si è aperta un po' questa discussione, al classico Beccaria, siamo sempre a Milano, oppure, sì, al Virgilio o anche al Parini. Sono presidi che hanno in qualche modo espresso delle perplessità su questo meccanismo e, un po' come sta dicendo lei, vorrebbero trovare una soluzione. C'è una soluzione diversa a questa situazione? Rivedere la legge? Sì, intanto va rivisto che cos'è l'insegnamento della religione cattolica, perché se noi siamo una scuola che spinge e vuole ridurre le diseguaglianze, questo è un tema che pone in modo diseguale i credenti al loro interno e i credenti dai non credenti. Insomma, non c'è dubbio che in Italia la religione cattolica sia una religione prevalente per cultura, non è la scuola che deve dire questa cosa qui, mentre la scuola dovrebbe svolgere una funzione di attenzione differente. Forse la scuola forse dovrebbe insegnare storia delle religioni e non un'unica religione, e poi giustamente, se uno invece è interessato a studiare la storia della religione cattolica, ci sono gli oratori, ci sono altri luoghi e uno va a studiare lì, giusto? Noi pensiamo questo, pensiamo che l'atteggiamento, cioè l'offerta che bisogna fare agli studenti da quando sono piccoli e arrivano nella scuola dell'infanzia, noi pensiamo che nella scuola dell'infanzia sono previste 2 ore di religione cattolica alla settimana, fino alle scuole secondarie superiori, sia necessario avere uno sguardo formativo differente, perché il rischio è di allontanare nel percorso formativo di uno studente l'attenzione a un atteggiamento più laico, alla religione in sé, e quindi di segnare delle carenze, di non colmare una necessità. Noi non possiamo pensare che la formazione della religione oggi possa essere solo ed esclusivamente quella di una religione cattolica. Abbiamo necessità di una religione, di un senso quindi di un senso religioso, sì, che riguarda un po' tutto l'aspetto politico mondiale. Naturalmente poi quando si parla di questi aspetti si toccano sensibilità soggettive, come è giusto che siano, si parla appunto di religione, di religiosità, che sarebbero anche 2 cose diverse, per, certo, cui si potrebbe insegnare un senso di religiosità e non la religione, o si potrebbero insegnare le religioni. Però a me sta molto a cuore, ho fatto un parallelismo, un paragone che forse è forzato, però con l'insegnamento per i bambini che hanno problemi, disabilità, l'insegnamento di sostegno. Siccome a inizio anno c'è stata un po' una denuncia, una sollevazione, perché nonostante l'assunzione dei precari con la buona scuola, molte scuole si sono ritrovate con gli organici, sì, pieni, più completi di prima, grazie a questa stabilizzazione, però con la mancanza di insegnanti di sostegno, perché magari non sono rientrati in queste stabilizzazioni. Quindi pensare a classi con 4-5 alunni che fanno l'ora di religione e magari c'è un alunno disabile che non ha l'insegnante di sostegno, a me personalmente questa cosa fa male. Lo chiedo a lei, è così? C'è questo problema sull'insegnamento del sostegno? Un problema rimasto aperto nonostante la legge appena approvata? Sì, è un altro ritardo, e questa è la necessità. Oggi la scuola avrebbe bisogno di luoghi dove fare delle discussioni molto più serie e molto più approfondite, che invece la volontà politica mette da parte. Raccontare che ci sono dei piani di assunzione straordinari, sapendo che su alcune questioni di insegnamento come il sostegno ci sono dei ritardi, perché magari quando c'era il ministro Gelmini, per esempio, molto nostalgica del grembiulino di cui dicevate prima, ci sono stati degli anni in cui i corsi di specializzazione rivolti agli insegnanti affinché si possano formare per essere insegnanti di sostegno, a loro spese ovviamente, sono stati bloccati, non sono stati messi in campo adeguatamente, oppure hanno visto dei numeri chiusi. E noi sappiamo che oggi invece la scuola italiana ha una carenza di insegnanti specializzati sul sostegno che possano rispondere anche a dei posti di assunzione previsti, per cui il Ministero può anche definire insieme al Governo che ci servono 2.000 insegnanti di sostegno, ma in realtà di questi 2.000 ne troveremo solo una parte. Oggi a Milano, per esempio, visto che lei è responsabile su Milano, sulla Lombardia, ci sono dei numeri? Quanti sarebbero gli insegnanti di sostegno che mancano al momento? È possibile fare una stima? Guardi, la stima è un po' difficoltosa, perché con il tipo di assunzioni che abbiamo avuto quest'anno i dati certi finali ancora non ci sono. Non ce li abbiamo, io avevo letto a inizio anno forse 30.000 addirittura in tutta la Lombardia, però forse è una cifra che è un po' elevata, però un po' elevata, va presa sicuramente con le molle, staremo a vedere, però insomma il problema c'è. Noi la ringraziamo, la salutiamo, grazie per essere stata con noi, Caterina Spina della CGIL, sulla questione dell'insegnamento dell'ora di religione. Insomma, 800 24 00 24, potete intervenire anche su questo, cari ascoltatori, e commentare quello che avete sentito. E soprattutto sulle vostre nostalgie, stiamo cercando e giocando su che cosa siete nostalgici, di che cosa siete nostalgici. Visto che appunto la Lega di Salvini ha detto vorrebbe tornare alla leva obbligatoria per tutti. 800 24 00 24, la risposta più interessante, più originale, a nostro giudizio insindacabile, si porta a casa anche oggi 2 biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello a Scile. Ci risentiamo tra un attimo. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Allora, abbiamo Claudio che ci chiama da Roma, buongiorno. No. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io vabbè, sono un vecchietto di 63 anni. Beh, non tanto vecchio, 63 anni è un ragazzino in questo paese. No, dentro sono fresco, c'è un bel motore, invece qua cacciacco con carrozzeria. Senta, anche perché deve lavorare fino ai 93, quindi non è che può scherzare. Io pensi 41 anni di servizio e devo lavorare ancora 2 anni, quindi che complimenti. Dobbiamo fare? Però fino a che ce la facciamo andiamo avanti. Le volevo dire, come lei ha chiesto, sì, che cosa le piacerebbe riavere, questa è una vita di tensione, di ansie, tocchi con un gomito una persona già tesa e gira con gli occhi insanguinati. È vero, io ripensavo a quel meraviglioso attore che ormai è morto, Ernesto Calindri. Al centro della piazza. Stavo per dire stavi dicendo quello del Cinar, del Cinar, in mezzo al traffico, contro lo stress della vita moderna. E poi il traffico di 30 anni fa lo possiamo immaginare, no? Qualche 500, lui bello beato, si beveva al suo Cinar senza le tensioni. Poi c'era una frase che lui diceva, no? Che io non ricordo, però parlava proprio contro lo stress della vita moderna, se non ricordo male. Perfetto, è quello che io ricordo con grande passione. Quindi lei ha nostalgia di Calindri o del Cinar? Esatto. O del traffico? Del carosello. Del carosello. Però l'hanno anche, l'hanno anche un po' accontentata, perché ultimamente la Rai aveva provato a rifare una sorta di carosello. Ma la gente vuol vivere nella tensione, se ne frega del cinar e del tavolino nella piazza piena di serenità. Di va bene, Claudio, grazie per questo così ricordo, questo spezzone, questo momento nostalgia. Quello bello, che con il traffico anche che c'erano delle 500. Infatti, forse la nostalgia di che cosa ho, che cosa vorrei che mi venisse dato indietro, forse la mia 600, i miei 20 anni, è una ragazza che tu sai, come diceva. Che ci sta, questo è un lapsus freudiano di Alessio. Sì, ma certo. Se non ci sta, che ragazza è? Oppure potremmo dire, non so, anche il motorino. Adesso, per esempio, Jovanotti ha dedicato la copertina, l'immagine al motorino, no? Al 50. Dillo a me il motorino. Il mio, l'ho appena rottamato io. La mia foto che faccio sempre su Instagram prima di venire a Radio 24 non c'è più, perché al momento il mio motorino è rottamato e non ne ho un altro. Devo comprare un nuovo motorino. Sai, quei motorini a marce che c'erano prima, adesso sono gli scooter automatici, che vanno benissimo, però non ti danno quella soddisfazione all'accelerata che ti davano quelli di prima. Andiamo con chi andiamo? Davide, che ci chiama da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, mi sentite bene? Bene, sì, benissimo, Davide, buongiorno. Cosa vuole intervenire? Perché sono in macchina, per quello che sto andando piano, per quello che sto andando, in realtà sto andando direzione Bologna in questo momento. Comunque, ma a viva voce, vero? Sì. Non è proprio un viva voce, in realtà, vabbè, comunque ho la possibilità. Vabbè, non ce lo dica, non ce la dica, se è qualcosa di illegale non ce lo dica. No, non è illegale, non è illegale. Beh, innanzitutto, siete complimenti perché siete bravissimi, vi ascolto quando posso. Grazie, Davide. Grazie. Io in realtà avevo due cosine da dirvi, che uno riguardava un po' l'argomento di poco fa col non ricordo se era l'assessore o il preside del... No, era una segretario generale CGL. Sì. Ecco, si dà benissimo, signor Galisto, che va bene lo stesso, uguale, tanto uguale. Allora, premesso che sono una persona molto modernista, perciò non mi affiliate a quello della persona che vuole vedere le cose la vecchia maniera, però... c'è da dire una cosa: oggigiorno, se siamo tutti liberi, soprattutto in Italia o comunque nella maggior parte dei paesi, grazie a Dio, e anche grazie a una cultura che si è evoluta, che ha avuto abbattuto e convinto, diciamo, tantissime persone e barriere sono state abbattute anche grazie alla religione cattolica, c'è poco da fare. Poi con tutti quanti i bene e male che ci possa dire, perché naturalmente non tutto è solo bianco o solo nero. Cioè, lei dice, noi siamo più liberi anche grazie all'insegnamento della religione cattolica. Sì, per strano che possa apparire, perché se uno dice, ok, guardo solo quello che ha fatto la religione cattolica, ne ha fatte di testa e corna, quanto che ne vogliamo, diciamo, non sicuramente. No, ma se parliamo, scusi, tante. Però Davide, però, se parliamo di cultura cattolica, di impegno sociale, politico, sicuramente questo è verissimo quello che lei dice. Diciamo, la democrazia italiana nasce anche con la democrazia cristiana, con tante cose. Però non ho capito sull'insegnamento della religione a scuola, ecco, perché di questo stavamo parlando. Un pochino volevo dire giustamente che bisogna comunque lasciare uno spazio, perché è vero che ad oggi forse nelle scuole c'è questa proporzione qua, però magari vale per alcune aree dell'Italia e non vale per altre. Io in realtà, dipende dal numero poi di esonerati, cioè difatti, il punto difatti. È questo, che per questa legge, scusi però Davide, questo è il punto, c'è questa legge, il concordato dell'84, che diciamo impedisce gli accorpamenti delle classi, quando siano diciamo poco numerose, nell'insegnamento delle ore di religione. Questa è una cosa che secondo me andrebbe modificata, perché è un costo, diciamo, aggiuntivo sulla scuola che non è giustificato per altri insegnamenti, ecco, mettiamola così. Le altre materie si insegnano con 20-25 ragazzi all'interno. È questo il punto che abbiamo toccato, e le chiedo, lei pensa che sia giusto o andrebbe modificata questa cosa? Allora, in minima parte penso che sia giusto modificarla, ecco, però, volevo portarla qua e ce l'ho portata. Sì, finisca Davide. Poi a un'estremizzazione della cosa, nel senso che poi si rischia che poi dicono, ok, c'è un maestro per scuola, perché io so come vanno le cose in Italia, quando si inizia a muoversi in una certa direzione, poi diventa la direzione diventa esasperata, come tutto. Noi abbiamo sotto o le cose le facciamo in maniera maledettamente negativa, o le cerchiamo di fare in maniera talmente positiva che poi si trasforma in qualcos'altro. Non la seguo quasi più, non la seguo quasi più su questo crinale, no, Davide, però abbiamo capito che lei comunque, diciamo, dà dei punti alla religione cattolica, anche all'insegnamento dell'ora di religione a scuola, e questo è il suo punto di vista. Vabbè, noi non è che diciamo che siamo contro, io sono contro, ma soprattutto la precisazione era molto corretta, perché la questione è che il concordato che regola l'insegnamento di religione è dell'84, adesso siamo in totale spending review, e quindi all'interno delle scuole non si capisce come mai tutti gli insegnanti in realtà debbano sottostare alle regole della spending review e quindi avere le classi sempre più grandi, e invece gli insegnanti di religione, siccome si appellano a questo articolo del 1984, dicono noi siamo inamovibili, siamo pagati dallo Stato, ma è la Chiesa che decide quanti alunni possono starci dentro in classe. Questo diventa un'ingiustizia all'interno della scuola, penso. Credo che anche molti di loro, anzi da alcune dichiarazioni si evince, sarebbero favorevoli a questo cambio. Aspettiamo che questa cosa maturi. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco. Esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid. Quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Ieri è stata la giornata dell'alimentazione, insomma se ne è parlato molto anche a Expo e dintorni. Noi vogliamo parlarne invece in chiave, nella nostra chiave Si può fare, perché intanto diamo il buongiorno a Francesco Di Jacopo, che è docente all'Università di Pisa, coordinatore del progetto Cibo Civile. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno. Perché se l'ambizione, diciamo, di questa parata che è stata l'esposizione universale di Expo, che ha portato l'alimentazione, diciamo, al centro dell'attenzione di tutti noi, è nutrire il pianeta, voi avete un'ambizione ancora più elevata, cioè di fare tutto questo in maniera civile. Così si chiama il vostro progetto Cibo Civile. Di che si tratta, professore? Sì, il progetto abbiamo dato questo nome, Cibo Civile, perché ci sembra che sia il momento di pensare al cibo in un'altra chiave, come uno smart food, cioè un cibo che ha più applicazioni, come nel caso dei telefoni. In questo caso le applicazioni sono di rilevanza per la comunità, applicazioni che hanno un valore inclusivo, perché produciamo cibo che ha in sé il valore inclusivo di persone a più bassa contrattualità che collaborano alla loro produzione. Più bassa contrattualità, posso specificare io, perché lei giustamente è professore, sabato mattina in radio, però, cioè, è come se fossimo a scuola, però gli alunni sono un po' addormentati. Parliamo di persone che hanno disagi, persone in stato di povertà, ma anche persone che hanno disabilità, quindi inserirle proprio nel lavoro, in queste fattorie, in queste fattorie didattiche, in questi posti dove si produce il cibo. Sì. Proprio di recente è stata approvata la legge nazionale sull'agricoltura sociale, quindi le aziende agricole e quelle che sono considerate come tale, quindi anche cooperative sociali di tipo B che fanno inclusione lavorativa, possono erogare servizi. Quindi servizi significa attività di coterapia per persone che hanno meno capacità ma che possono riacquisirne, attività di educazione, di formazione, di inserimento anche al lavoro. Chiaramente sono percorsi complessi e differenti, sì, che però possono avere degli esiti. Perché proprio è vero che la filiera agricola, no, si adatta particolarmente all'inserimento, è uno dei settori privilegiati per inserire per esempio persone disabili. Come mai c'è questo, diciamo, questo matrimonio di interessi? Il contatto con le piante, il contatto con gli animali è abilitante per sé, di nuovo, non per tutti, non è che stiamo raccontando una panacea. Sì. Però prendersi cura di altri cambia il destino delle persone che fino ad ora sono stati oggetto di cura di altri. Perché magari quello che per me è un peso, una fatica, lavorare nei campi, per una persona invece che porta già un peso, una disabilità, può diventare addirittura una cura. È incredibile questo. Sì, perché, come dire, prendersi la responsabilità di altri che sono organismi viventi e vedere i risultati della propria azione, e questo è capacitante per molte persone. fermo restando anche la possibilità di operare in piccoli gruppi dove il giudizio, a volte negativo, che la società attribuisce è meno condizionante, e così piano piano le persone riacquisiscono consapevolezza in sé, consapevolezza nella capacità di costruire relazioni con gli altri e, se possibile, anche trovare un'occupazione. È chiaro che al centro di questa cosa c'è il rapporto con i consumatori, che sanno distinguere il contenuto, appunto, le applicazioni che il cibo civile ha. Infatti ho letto in una sua dichiarazione una definizione stupenda, dove dice: il cibo civile è un bene di relazione. Sì, questo chiaramente viene anche dalla letteratura. Esistono beni di posizione, quelli che acquistiamo per farci vedere belli, diciamo, di fronte alla società, e i beni di relazione sono quelli che ci consentono di entrare in contatto con la società. E quindi, ecco, il rapporto con il cibo civile rappresenta anche questo, una comunità che sa generare risposte alle crisi che tutti i giorni noi viviamo, crisi che sono di risorse pubbliche ma anche di welfare, e che viceversa costruisce una rete in cui le persone stanno dentro, e quindi questa relazione infittisce la capacità di risposta che le comunità sanno dare ai problemi che abbiamo di fronte a noi. Mm. Quante aziende sono già coinvolte nel progetto, professore? Ma noi abbiamo cominciato a lavorare sul tema del cibo civile a Torino nel 2010, sì, e abbiamo costruito in 3 anni una rete di 35-36 imprese agricole e 15 cooperative sociali. Bene. Con il rapporto con 2 consorzi dei servizi che sono sul territorio, perché questa partita chiaramente si gioca con le istituzioni pubbliche e le autorità comunali, e abbiamo contribuito a creare, con il potere economico delle imprese che producono cibo, 29 nuovi posti di lavoro. Complimenti. A tempo determinato, 2 nuove cooperative sociali, una nuova impresa e una bottega. Quindi questo... Bravi, bravissimi. Insomma, non è poco, ci sono già alcune decine di aziende, una trentina di posti di lavoro già creati in questo modo per queste diciamo categorie speciali, vogliamo dirlo così, sì, di persone. Questo è il progetto Cibo Civile. Grazie professor Di Jacopo, in bocca al lupo. Grazie mille. Un'ultima cosa, mi sì, consenta. Prego. Il progetto è stato esteso anche in Toscana, quindi stiamo lavorando insieme, certo, alla ristorazione pubblica, che fa anch'essa ristorazione inclusiva, quindi cooperative sociali che fanno catering o mense scolastiche, quindi costruiamo una microfiliera e ci sono altre 20 imprese in Toscana che stanno operando in questa direzione. Benissimo, benissimo, grazie. C'è anche l'assessorata all'agricoltura della regione Toscana. Vogliamo chiudere con un ascoltatore, Fabio da Milano, in 30 secondi. Fabio, veloce. Buongiorno, per il momento nostalgico. Prego, di cosa? Guarda, una grandissima nostalgia delle brioche, dei croissant, dei cornetti. Perché non ci sono più? Quelli di una volta, ma che tutti i bar, in tutti i bar, tutta la roba standard, confezionata. Quella roba surgelata. Tu vuoi le brioche, quelle vere, Fabio? Perché prima c'erano queste brioche. Noi andavamo nei barettini, nei alimentari a Milano, sapete, vi ricordate? Spettacolari, non ci sono più. Però Fabio, secondo me, se cerca bene ci sono, ma siamo felicissimi che lei sia nostalgico delle brioche alle 9 ci del stava. Mattino. Siamo perfetto. Felici. Grazie, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da... Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini. Eccoci qua, 800 24 00 24. Questa mattina siamo partiti dalla questione dell'ora di religione con l'appello di alcuni presidi, insomma, ad accorpare, cambiando però la legge dell'84, il concordato, ad accorpare l'insegnamento, perché insomma ci sono classi con 4, 5, 6 alunni per ogni insegnante. In questo momento, insomma, come dicevi giustamente tu, Carlo, di spending review, no, questa cosa non ce la possiamo permettere forse. E poi vi aspettiamo anche per giocare con noi, vi chiediamo insomma il vostro momento di nostalgia, perché sapete, Salvini ha detto che vorrebbe tornare alla leva obbligatoria, e noi vi chiediamo: e voi a che cosa vorreste tornare? E abbiamo già avuto qualche intervento, l'ultimo ascoltatore voleva tornare alle brioche artigianali.

se li perdiamo, dico, un po' più di attenzione pure dei genitori, se no è colpa sempre dell'altri nella vita. No, no, a Roma era colpa di Marino, a Roma era colpa, lì è colpa di, è sempre colpa di qualcun altro, sicuramente. Però bravo, bravissimo, è vero, colpe. Questo è vero, questo, cioè, è vero. Io sto facendo una campagna per Roma da... Addio, abbiamo perso. È andato via l'audio. Adesso sì. Una campagna per Roma, vedete, mi ha scritto: vuoi Roma più pulita? Tienila pulita. Sei te il problema, sei tu il problema, puoi cambiare 2000 sindaci, ma se siamo un po' sozzetti, un milione su 5 milioni sozzetti, sì. E quelli dell'AMA sono 7800, hanno vinto i sozzi. Vabbè, sono 7800, di cui 7000 stanno in ufficio. No, hanno vinto i sozzi, mi sembra che... Hanno vinto gli sozzi, è la frase da twittare, hanno vinto i sozzi. È la frase dell'anno per quanto riguarda Roma. Dico, facciamo un po', i ragazzi, voi siete belli, giovani e intelligenti. Più almeno di me, della mia cosa, sicuramente. Di conseguenza, occhi aperti. Non può essere un comico di una certa età che vi dice delle cose a voi. Io vi dico, ma sapete già quello che non si fa. Vedete quello, l'amico tuo che lo consuma, che fine di cacca fa. Di conseguenza, occhi aperti. Questo. Senti, è, ma quando li incontri, li hai incontrati, insomma, nelle occasioni, sì, in cui ti è capitato nelle scuole, eccetera, questi tuoi appelli vengono raccolti? Cioè, vedi negli sguardi che cosa vedi? Interesse, curiosità, estraniazione? No, sicuramente dopo che incontro con me aumenteranno pure le dosi. Perché... Pronto? Sì, ti stiamo ascoltando. Sì. L'effetto... No, dopo di me dice che se diventa come Battista lascia perdere l'altro campo di tutta la vita. No, certamente loro raccolgono il messaggio allegro, simpatico, ilare e giocondo, e mi auguro che siano attenti, che te devo dire, questo posso dire, non mi auguro altro. L'auspicio e la speranza, noi naturalmente ci uniamo a questo auspicio e a questa speranza, crediamo che il modo in cui tu la racconti questa vicenda sia convincente, speriamo che... Me l'auguro. Speriamo che i ragazzi si facciano convinti, ma io prenderei sul serio la tua traccia, cioè la prossima campagna per i genitori, davvero, la farei. Sì, secondo me è molto utile. Perché troppo... spesso quando giustamente tu dici la ragazzina, ma scusami, la tua figlia c'ha 15 anni, torna alle 5 del mattina e tu che cosa fai? Spesso magari il genitore è fuori pure lui, quindi... Ecco, perfetto, questa distrazione dei genitori, sto dicendo pure io, la campagna, ragazzi, sta ragazzina... Torna alle 5, 15, 16 anni. Dove va? Cosa fa? L'altra domanda, l'altra campagna. Dove va? Cosa fa? È 5, se stava a casa. Ragazzine 15 anni. Stava a casa, 16 anni. Sono tutte madri delle famiglie a 15 anni, vedo. Ecco, questa è una cosa che mi brucia un pochettino. Perché... Maurizio Battista, ministro della famiglia. Ciao, a presto. Ciao, buon auguri a tutti, buon fine settimana. Grazie. Grazie a te, ciao. Grazie. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. Where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope just lies and you're taught to cry in your pillow. But I survive. Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Alive di Sia, la canzone che ci è stata segnalata dall'ascoltatrice Susanna da Mantova, perché dice che la fa sentire viva. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di vostri si può fare, se siete dei cantanti, dei musicisti, ma anche semplicemente degli ascoltatori, avete delle canzoni che amate molto, che trovate che rispondono bene al concetto di si può fare, segnalatecele, fatecele sapere, lo potete fare sui nostri account social, su Facebook si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter @ si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @ Carlo Gabardini e c'è pure il mio @ Ale Maurizi. Allora, un po' di reazioni ascoltatori su Twitter, per esempio, per quanto riguarda anche l'intervista a Maurizio Battista, testimonial della campagna contro la droga e l'alcol della regione Lazio. Dice Massimiliano Perri: una droga di buona qualità fa male a prescindere. Attenzione, Carlo Gabardini, questo ce l'aveva con te. Sì, ma però il concetto è chiarissimo e ci mancherebbe altro. l'altro non stiamo dicendo che la droga non faccia no, male, però è vero, stavamo giustamente dicendo che quello. Nel momento in cui l'artista parlava di quantità, noi dicevamo anche della questione della qualità, perché c'è droga e droghe, ci sono delle droghe che se non sai minimamente che cosa prendi e ti vengono vendute all'angolo della strada, ecco, quelle proprio non prenderle perché non sai che cosa c'è dentro e forse ci rimani secco al di là di droga o non droga. Allora, un po' di ascoltatori, cominciamo con Vittoria che ci chiama da Milano. Buongiorno Vittoria. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Sempre complimenti, sempre allegri e con tanti argomenti interessanti. Grazie, grazie. Vittoria. Mi volevo allacciare alla campagna, scusi, di Maurizio Battisti, peraltro sì. Simpaticissimo con la sua battuta sulle due mostre, mi ha fatto ridere, sì. Mentre bevevo il tè. Che detto da una donna è eccezionale. Sì. Carina. Ma non è che lei è la moglie di Battista in realtà? No. Ah. No, non lo conosco. Pensavo che chiamasse per rettificare. Prego, scusi. Sarebbe stato carino anche questo, sì. Io e mio marito, sempre, noi siamo sempre in due, anche un'altra volta che ho chiamato, parlo sempre a livello corale io. E abbiamo pensato, avendo due figli, vabbè, sono due figli maschi e non due figli femmine più grandi, che c'è anche un altro problema su cui riflettere a monte per questi ragazzi, cioè i locali che loro frequentano iniziano tardissimo, quindi le discoteche non iniziano mai prima di mezzanotte. Questo innesca tutto un processo per cui loro escono di casa, verso le 11, aspettando che aprono i locali, sì. Magari vanno al bar, bevono, cominciano già a bere qualcosa, una cosa e l'altra. Finalmente entrano, inevitabilmente, ora che stanno in discoteca, arrivano vero, tutti gli amici, non si può fare locali. Prima delle 5. Esatto. Vittoria, tra l'altro questo è un problema che diciamo ci si scontra anche chi comincia a avere un lavoro, una famiglia, magari dei figli, vorrebbe uscire. A me per esempio recentemente è capitato di non ritrovarmi in questi orari, perché ovvio però, che non può iniziare a ballare alle 2 di notte, perché di notte vai a letto. Però allora, le chiedo una allora cosa, non c'è un vantaggio in tutto questo? Non c'è il vantaggio che uno può cenare a casa con i genitori e dopo uscire a ballare? Ma no, il vantaggio è che comunque si potrebbe cenare. Allora faccio anch'io il mio pensiero nostalgico, quello aveva nostalgia delle brioche e io nostalgia delle discoteche che iniziavano alle 10:30, se non addirittura quelle del sabato, che innesca un meccanismo secondo me molto più sano, corretto e in linea con quelli che sono dei ritmi poi sociali. Va bene, grazie Vittoria, grazie mille per il suo intervento. No, volevo aggiungere una cosa, velocissima però, Vittoria. Sì, veloce, al volo? No, è solo questo. Poi si possono fare altre considerazioni sul tipo di musica a palla che anche aiuta a ritornare. No, vabbè, ma non facciamole perché sono altre cose. Grazie Vittoria. Prego, mettiamo, grazie mille. Mettiamo agli atti anche questa risposta. Allora, le discoteche che aprono alle 10. Ma perché un tempo, perché non ho capito, è una questione che un tempo aprivano prima, aprivano prima, può essere, sì. Alle 10, però sicuramente c'è, se tu potessi tracciare un grafico da, non so, 100 anni fa ad oggi, sicuramente c'è una linea che sì, sì, è vero, ma anche perché sale. Purtroppo c'è questo concetto che andare troppo presto è da sfigati e non si capisce perché, cioè, andare a ballare devi essere un disoccupato, perché non puoi andare a ballare alle 2 di notte fino alle 4 e poi la mattina alle 8 alzarti per andare a lavorare. Oppure dalle 7 quando finisci di lavorare a mezzanotte dormi e dopo vai in discoteca. Matteo da Ragusa, buongiorno. Scusate. Sì, salve, scusi. Prego. Velocemente, sì, grazie. Sì. Volevo dire una cosa, io quello che rimpiango sono le monete da 500 euro, vi ricordate negli anni 70? 500? Euro. Da 500 lire, chiaramente. Pensavo da 500 lire. No, negli anni 60 non erano monete, erano banconote da 500 lire. Intendevo monete come banconote. Banconote da 500 euro, quelle con la testa alata. Certo che ce le ricordiamo benissimo. Ecco, io le rimpiango perché se voi fate attenzione, sì. Questo c'era scritto Repubblica Italiana, voleva dire che nascevano di proprietà nostra, cioè dello Stato, quindi quelle buone monete non ci indebitavano, sì. Quindi grazie a quelle monete io pagavo un po' meno tasse di quello che pago adesso. Adesso se voi andate a vedere sulle banconote c'è scritto Banca Centrale Europea, vuol dire che certo. Nascono di proprietà della Banca Centrale Europea e io pago più tasse. Vabbè, quindi lo sta dicendo in un modo molto poetico, ovvero con le banconote da 500 lire, quelle piccoline bellissime, sì. Lo sta dicendo in modo poetico, ma sta dicendo che vorrebbe tornare alla lira, nel senso lira. Che se no è la Banca Centrale Europea, noi paghiamo più tasse ed è comprensibile. In più in questa nostalgia, se posso aggiungere una piccola cosa, la vera nostalgia per me della banconota da 500 lire è che ricordiamoci che sarebbero i 25 centesimi di oggi, ovvero una banconota dei 25 centesimi, invece la banconota

che oscilla tra i 220 e 250 persone. Ma bisogna, è un progetto bellissimo. Bisogna, scusi, dimostrare di non essere in grado di pagare, di poter pagare in moneta oppure no? Addirittura anche io no, addirittura anche chi ha tempo da dedicare al comune, chi lo vuol fare perché vuol dare il suo contributo alla collettività, gli abbiamo dato anche a questi la possibilità. Quindi non c'è la necessità di essere indigenti, si può anche proprio decidere, io preferisco pagare metà in contanti e metà in opere. Esatto, perché sulla base di quelli che sono l'adesione, il nostro comune è un comune di 23.000 abitanti, quindi è abbastanza consistente. Il numero, diciamo, delle persone che hanno aderito era adeguato a quella che era la nostra idea. Tra l'altro li abbiamo dotati dei dispositivi di protezione individuale, cioè tutte le scarpe antinfortunistiche, le pettorine per chi lavora sulle strade, i caschi, e poi tutti i mezzi di lavoro di cui hanno bisogno, perché ci vogliono le falciatrici, tutto quello che serve per fare questi lavori. L'abbiamo dato noi, da non dover far spendere il cittadino che poi faceva queste opere da un punto di vista di attrezzatura. Senta, sindaco Mungai, sindaco di Massarosa, recentemente la vostra città è stata sede anche di un incontro, di un convegno nazionale, proprio perché molte, ce lo diceva anche l'altra volta che ci eravamo sentiti, molti altri primi cittadini si sono rivolti a voi per chiedervi come avete fatto a concretizzare questa previsione che c'era appunto in una norma nazionale, ma insomma, prima che lo faceste voi in qualche modo non è che ci siete stati un po' apripista. Mi spiega perché questa pratica è una buona notizia e ci, secondo lei ci guadagnano tutti e perché? È una buona notizia perché intanto si creano anche dei momenti di aggregazione, perché abbiamo cercato di mettere insieme questi cittadini e a lavorare in maniera in gruppi, due o tre persone, da poter essere piacevole anche l'eseguire i lavori. Ma poi ne guadagna anche il territorio, perché c'è una cura diversa, c'è un'attenzione diversa da parte dei cittadini nei confronti delle opere che fanno. Cioè, se uno tiene una strada pulita e vede qualcuno che gliela sporca, e vede qualcuno che fa delle cose, gli viene detto, perché quella la sente sua. Vuol dimostrare alla collettività che c'è una riappropriazione di quelli che sono i valori di avere un territorio in ordine, un territorio pulito, un territorio che diciamo è accogliente. E in questa linea abbiamo anche addirittura dei vigili volontari che mi presidiano il territorio contro l'abbandono dei rifiuti, che mi segnalano le posizioni di criticità. Abbiamo, diciamo, un'attenzione diversa e il territorio, c'è una sorta di riappropriazione di quella che è il decoro pubblico, la pubblica, diciamo, fruizione di quelli che sono gli spazi comuni. Mi sembra molto saggio questo progetto, e se accetta anche un complimento ulteriore, mi sembra molto bello anche il fatto di dire aspettiamo di vedere quante persone fanno richiesta e dopo decidiamo anche i criteri di scelta, di modo di non limitare per niente, perché giustamente lei dice se li posso accettare tutti perché devo mettere degli astrusi criteri di scelta, li ho accettati tutti, quindi personalmente le faccio veramente i complimenti. Grazie sindaco Mungai, a presto, in bocca al lupo con questa iniziativa, staremo a vedere insomma se poi prenderà piede. Devo dire che ha avuto anche un'adesione forte quel convegno che abbiamo fatto ieri, perché c'erano 150 rappresentanti di amministrazioni che venivano da tutta Italia e veramente c'è stato da parte di questo un grande interesse, un'ondata di baratto amministrativo anche nelle altre città, nelle altre comuni, e ripetibili, le buone pratiche vanno ripetute. Grazie ancora. Mille sindaco. Grazie, buongiorno. Allora, prima ancora di commentare però vorrei sentire un ascoltatore al volo, Giulio dalla Spezia, prima di andare sul traffico. Buongiorno Giulio. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Gli altri due, voi siete gli altri due. Gli altri? Dopo attenti a quei due, voi siete molto più rilassati. Ecco, sì, allora lunedì verdi noi vi rilassiamo il sabato e la domenica. Gli altri siamo noi. Gli altri siete voi. Fatemi dire una cosa. Sì. Prego. Salvini parla così perché non sa di quello che parla. Lui non l'ha fatto il militare per dire questa cazzata. No, non l'ha fatto? Perfetto, secondo me no. Salvini non lo so, se lo sa lei. Sicuramente è fuori età massima per farlo. Appunto. Comunque veniamo a quello che vi ho proposto io. I cieli stellati. E attenzione, ci sono ancora oggi. Cioè, la sua nostalgia è per i cieli stellati. Esatto, di una volta, dove bellissimo. Non c'era questo inquinamento luminoso. Beh, è vero, perché bisogna andare in campagna, oggi. Se no non si vede. Bravo, io andavo infatti, la mia gioventù l'ho passata nelle vacanze in campagna e ricordo delle serate con dei cieli, con delle stelle che tu non pensavi che fossero così tante. Giulio, mi dispiace dover interrompere questo momento poetico, ma devo dare la linea al traffico, però grazie e mettiamo bellissimo agli atti, anzi secondo me questa è in altissima classifica, in altissima classifica, potrebbe vincere. Grazie Giulio, ci fermiamo per il traffico e ci ritroviamo tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno a Miriam Maurantonio. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Una delle mamme bolognesi, autrice di una promotrice di una iniziativa, di una campagna che si chiama molto semplicemente Io Vaccino. Come si suol dire, ci avete messo la faccia, girano i selfie di molte mamme bolognesi che simpaticamente, ma anche con forza, sottolineano questo concetto. Perché avete deciso di fare questa cosa, Miriam? Abbiamo deciso di fare questa cosa perché ci siamo resi conto che c'era bisogno di una campagna di informazione mediatica e più di impatto, visto comunque anche gli avvenimenti dei giorni passati. E in più abbiamo voluto sostenere una mamma, che è Alice Pegnatti di Cesena, che ha lanciato una petizione 4 giorni prima che succedesse il fatto della bimba bolognese, dove chiedevamo, sì, chiedeva appunto l'obbligatorietà delle vaccinazioni negli istituti scolastici pubblici. Tra l'altro a questo è un tema che sta montando, perché c'è stato un incontro delle regioni che hanno deciso che questo è una cosa che si può fare, il Ministero della Salute pure sembra che stia adottando questa ipotesi, cioè quella di vincolare l'iscrizione alle scuole al fatto di avere effettuato le vaccinazioni. Intanto il caso di Alice, se ce ne vuoi parlare, Miriam, che cosa è successo? Un fatto grave? Sì, abbastanza grave, perché sua figlia praticamente si è ammalata a 40 giorni di pertosse, è stata ricoverata 10 giorni in ospedale, è stata molto male e quindi poi da lì lei ha deciso di raccontare la sua testimonianza, di far capire ai genitori che contrarre questa malattia in tenera età, e quindi quando non si ha neanche la possibilità di essere vaccinati, può portare decisamente a gravi conseguenze, come è successo appunto anche a Bologna domenica, anche perfino alla morte. Cioè, noi non vogliamo che queste malattie vengano sottovalutate, perché comunque vogliamo che l'informazione non passi da siti e comunque gruppi che fanno paura o mettono comunque terrore nelle mamme, ma passi attraverso i medici, i medici che comunque hanno una preparazione più tecnica. Però che cosa vi dicono a voi mamme i medici e i pediatri? Perché bisogna vaccinare i bambini? Parliamo di un calo delle vaccinazioni, non grandissimo, però di alcuni punti in percentuale, ma secondo l'Istituto Superiore di Sanità siamo sotto la soglia per alcune malattie che stanno tornando a diffondersi, malattie anche gravi come per esempio la pertosse, che può essere mortale. Che cosa vi dicono i pediatri? Allora, innanzitutto volevo precisare che comunque la soglia, soprattutto a Rimini, è scesa ed è arrivata all'83%. Su Bologna siamo sul 94%, quindi comunque un po' più alta, però il problema è nazionale, ricordiamolo, perché queste soglie sono scese da un anno all'altro in tutto il paese. Dicevamo, i pediatri con cui voi mamme parlate consigliano le vaccinazioni, perché? Certo, le consigliano perché è l'unico modo per difendersi e per garantire la protezione non solo nostra, ma anche di chi ci sta attorno. Sembra una cosa scontata, ma giova ripeterlo. Invece perché, Miriam, secondo te ci sono altre mamme, altri genitori che si fanno prendere dalla paura, si fanno convincere, non so da cosa, da che tipo di informazioni che possono leggere altrove sul web, però poi alla fine fanno questa valutazione? Secondo te perché? Perché con l'avvento comunque di internet ha dato tanti, nel senso che ci sono tante cose che sono andate avanti e ci hanno comunque unite, tante cose invece ci hanno un po' allontanato. Perché una mamma, per esempio, che si vuole informare, fa una ricerca su internet, su Google e clicca vaccinazioni, troviamo magari 10 siti che ne parlano contro. E magari è anche difficile trovare anche l'informazione corretta. Oggigiorno tutti abbiamo magari il computer, il cellulare, siamo su Facebook, ci scriviamo nei gruppi, e su questo voglio dire che comunque le campagne antivaccinazioni sono molto più avanti di noi, perché comunque sono più preparate, rispondono alle mamme, si organizzano, fanno incontri, vendono libri. Invece noi purtroppo ci siamo un po' allontanati, anche perché anche l'ASL magari è rimasta con l'informazione, con la comunicazione tradizionale. Cioè voi dite c'è una informazione magari troppo fredda, troppo istituzionale, troppo lontana, sì, dal, sì, sentire delle persone, ecco perché voi ci avete voluto mettere la faccia in questa campagna, sì, di comunicazione più, anche più emotiva. Quante, sì, facce sono girate anche su Twitter di questo hashtag Io Vaccino? Allora, per quanto riguarda la petizione siamo arrivati quasi alle 23.000 adesioni. Per quanto riguarda invece l'adesione allo slogan, quindi Io Vaccino non ho la disinformazione, siamo super giù sulle 250 foto postate di selfie su Facebook. Poi hanno anche aderito su Twitter e su Instagram, ma dovremmo essere sulle 400 adesioni, se non di più, anche perché molte persone magari hanno fatto il selfie, l'hanno messo magari sul proprio profilo, e quindi insomma non sono quantificabili. Però nell'effettivo abbiamo dovuto, per esempio, cambiare il nostro gruppo, che era regionale, quindi il Consiglio Mamma Mamma Emilia Romagna è dovuto diventare Italia, per consentire anche alle altre mamme delle altre regioni di poter iscriversi, proprio perché abbiamo avuto tantissime richieste di iscrizione. Grazie per quello che state facendo, Miriam Marantonio. Io Vaccino, l'hashtag lo trovate su Facebook, lo trovate su Twitter, potete trovare online le loro facce, le loro belle facce. Grazie ancora. Grazie a voi. E adesso un appuntamento, perché torna su Radio 24 l'iniziativa AXA Nati per Proteggere. Potete sentire la campagna di comunicazione anche su Radio 24. Noi all'interno di Si Può Fare ospitiamo le 8 storie finaliste di questo contest, che mira a dare un premio di 50.000 euro alla storia di protezione più interessante. Si tratta di Onlus, associazioni di volontariato impegnate in azioni con finalità di protezione sociale. 8 sono quelle selezionate. Potete andare sul sito, sceglierle, votarle sul sito Nati per Proteggere. Noi da oggi ve le facciamo sentire due alla volta. Cominciamo con le prime due storie di protezione. Vai. Cosa ne pensereste se, oltre ad avere un grosso problema, non poteste nemmeno svagarvi facendo un viaggetto ogni tanto? Beh, è quello che capita ai molti portatori di handicap, che non possono salire facilmente su treni, autobus, aerei e non possono facilmente accedere a monumenti e musei. Ebbene, Rotellando è un progetto di protezione che ha a cuore proprio queste persone, e ce lo spiega il suo creatore, Fabrizio Marta, alias Rotex. Ciao, io sono Fabrizio Marta, alias Rotex, e sono in carrozzina e da anni amo viaggiare. Dico sempre che ho questa seconda malattia, che è la viaggite. Da lì è poi nato un progetto che si chiama Rotellando, ed ora abbiamo in mente questo nuovo progetto, che è Roteando, e sarà una mostra interattiva in cui si vuole comunicare un nuovo modo di vedere, percepire e comunicare la disabilità e la diversità. E non sarà vista come un limite, ma solamente come un modo differente di muoversi. Quindi ci saranno delle fotografie, delle arti creative, e il visitatore entrerà e avrà un punto di vista diverso di vedere le cose, ovvero da seduto, da rotellante. E cambieranno un po' le prospettive, ovvero quello, il visitatore che normalmente cammina vivrà una cosa diversa, ovvero quella di camminare. E crediamo veramente che questo sia un progetto innovativo, e credo forse quasi unico nel suo settore, e quindi vi chiediamo veramente di votare sul sito di Nati per Proteggere di AXA, e votate Rotellando, per cortesia, perché ci teniamo veramente molto. Di Scampia si è parlato tanto, un quartiere difficile di Napoli dove la criminalità spesso è la sola proposta per i giovani che ci vivono. La prossima storia di protezione vive qui, a Scampia. È il Centro Hurtado, nato dall'iniziativa di padre Fabrizio Valletti, ragazzi di Scampia, che oggi promuove una biblioteca e un centro di formazione sartoriale, come spiega Serena Gaudino. Il progetto ai ragazzi di Scampia è un progetto del Centro Hurtado, che ha l'obiettivo di focalizzare tre importanti aree del lavoro a Scampia. Il lavoro per le donne, cercando di focalizzare l'attenzione su una fattoria dove le donne possono trascorrere il loro tempo e soprattutto produrre e accedere quindi a una fascia di mercato molto difficile. Una invece sezione legata all'artigianato, dove i ragazzi possono realizzare attività di cartotecnica, rilegare libri anche antichi, e poi abbiamo una parte dedicata invece all'educazione e alla cultura con una grandissima biblioteca di oltre 10.000 volumi. Vivere a Scampia è molto difficile, è un quartiere molto complesso dove è molto difficile soprattutto lavorare perché ci sono veramente pochissime occasioni. Il centro Stato è l'occasione giusta, perché è l'occasione in cui si può lavorare non a nero. Noi ci terremo tantissimo a vincere questo premio, perché con questa possibilità potremmo rinnovare qualcuno dei nostri macchinari, delle nuove macchine da cucire per queste donne, delle nuove tagliatrici e soprattutto delle attività per i ragazzi, e provare ad avere più laboratori. Speriamo che ci saranno moltissimi voti. Ci risentiamo domani. A domani. Ciao, ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona giornata, grazie. Andrea Piana, Claudia Schiattone, Peter Bescapè. Ciao.